Natalino. La vecchiaia che chiama? Ebbene Natalino, ho visto il tuo messaggio che stai usando di nuovo l'altro telefono. L'ho letto, quant'è, mezz'ora fa, un'ora fa? Bene, bene, ma l'altro l'hai smarrito? No, ce l'ho sempre, ma è sempre spento, capito? Non me ne posso buttare 50 ai telefoni, no? Se l'altro mi serve perché c'ha la scheda diversa, che ha la scheda TIM invece di Vodafone, così se non pigliavo non pigliavo, ma mi serviva per lavoro e boh, mi sto portando sempre quello Vodafone. Deia. Noi in casa per esempio abbiamo tutti Vodafone, io, mamma, mia zia, mio zio, tutti. È una scelta che avevamo fatto perché adesso chi se lo ricorda, sono passati tanti anni, però chissà perché Vodafone ci piaceva, magari le tariffe erano più vantaggiose all'epoca. Il mio primo telefono l'avevo preso nell'anno, che anno poteva essere? 90, non lo so, non mi ricordo se era 95, 96. E io ce l'ho un telefono da quando praticamente è uscito. Deia. Una volta esisteva l'8007, ti ricordi, il Motorola 8007 e l'8009. Mamma mia, eppure funzionavano, è che avevano le plastiche troppo delicate, lo sai, si rompevano sempre le plastiche, ho notato, sia lo sportellino ad apertura, oppure le finiture, bastava che prendesse un colpetto, io ne ho ancora uno, di quelli, solo che lo tengo come oggetto da museo, dai. E infatti, ce l'ho avuto anch'io nel 7000, l'8007, l'8009, già Udo, e prima ancora c'avevo quelli tax, il coso c'avevo, quello uguale all'8007, però era fino, era, cazzo, 1.600.000 lire avevo pagato col viva voce, ce l'avevo nella Giulietta. Ma lo StarTAC? No, l'altro, prima dello StarTAC ce n'era un altro, adesso non mi ricordo come si chiama, MicroTAC mi va. Il MicroTAC Elite ce l'avevo io, quello fine, ce l'aveva il padrone del bar di Cittamercato uguale al mio. Io c'avevo il kit viva voce in macchina, me l'aveva appena sotto scarpa. Eia. Sì, all'epoca costavano una follia, me lo ricordo, 1.400.000, 1.600.000, e caspita, era una cosa assurda, perché erano i primi, poi con 20, tanti anni dopo, costavano anche 25, 29 euro, così, sai quelli piccolini, no? I Motorola, i Nokia piccolini, proprio solo cellulari, non smartphone. Addirittura trovi, come si chiama quella, da Euronova trovi quei telefonini cinesi, solo telefonini, sono. Marcati Copper Mobile, cinesi sono, no? E costa tipo 9,99. Certo, non sono a livello di Nokia, però funzionano. Infatti, cazzo, io il Nokia 3330 avevo preso, quello bianco. Allora, mi stai parlando di Rubuccio di Bosciudore, Rubicchè indicata, ma nasce, bravino, nel baschino. Non ho appena comprato. Ti ricordi i modelli della Telecom all'epoca? C'era lo Storno, ti ricordi i nomi? Storno, avevano dei nomi tipo così. E il coso c'aveva anche l'ovetto. Io me li ricordo nel 94, io ancora non avevo cellulare mi pare. Sai che non me lo ricordo quando l'ho preso, il mio primo cellulare proprio personale è stato il Teo della Telital. No, io della vecchia il primo mi pare, a bolletta era mia Etax, non era neanche, come si dice, come quelli che ci sono adesso, a bolletta era Etax, il NEC. Sì, sono durati abbastanza quelli analogici, e sentivi tutto, che bello che era quel periodo, mamma mia. Poi come sono arrivati i GSM è finita la pacchia. Sì, il mio era azzurro, il CEO della Telital, era molto carino d'aspetto, ma ormai la Telital non so se neanche esiste più. Poi mi ricordo, insomma, nel periodo dell'8007 il Microtac è uscito. No, il Microtac, vabbè, quello me l'hai detto tu, no, lo StarTac mi ricordo, che si apriva tipo comunicatore di Star Trek, già questo nome, no, StarTac, Star Trek, assomigliava. E poi tanti altri sono usciti. Mamma invece, a metà anni 90, o primi 90 o metà 90, avevo un mattone di una marca assurda, proprio un mattone era mi, analogico, e addirittura poi quando la batteria è andata, era pesante mi, lo usava fisso con l'alimentatore, ma marca mai vista mi, una marca assurda. Ma era proprio pesante, un mattone, se lo tirava in testa uno gli faceva molto male. E poi piano piano si era sfasciato, si erano rovinati i tasti, ma era uno dei primi, L'aveva preso la persona che l'ha comprato prima da CM Electronic, no? E poi l'ha ceduto a mamma, l'ha venduto a mamma o regalato, non mi ricordo. Ma è un barragione, era mi. Io me la posso immaginare. Caspita, cellulari analogici, veri cellulari, non quelli da macchina, quei barragioni Motorola da macchina, no, quelli fissi con la cornetta. Storia antica, guarda. E tuttora lo stesso, vabbè, adesso ci sono gli smartphone di moda, ma volendo vendono sempre dei cellularini da 29 euro, 27 euro, 24 euro, solo cellulari, cioè che fanno, che puoi parlare e mandare messaggi, sms. Aspetta Marco, che hanno fischiato i vigili urbani qua, che qui non si sa mai, capito? La mia è posteggiata da lei sotto casa, brutti. E beh, la macchina ti hanno sequestrato. Oh, la mia è posteggiata bene, ma non si sa mai, no? Sì, infatti, non si sa mai. Adesso alla TV hanno parlato di quella legge del codice della strada. Praticamente la macchina, se la lasci in sosta, se ti allontani, la devi chiudere tutti i vetri. Non puoi lasciare né finestrini aperti, anche se la devi raffreddare per il caldo, e né portiere aperte, anche se ti fermi un attimo per andare, che ne so, al tabacchino. Cioè, se ti vedono, se ti vedono la macchina incustodita, aperta, da un po' te la multano. Queste le immagini. E di tutti i colori ne hanno tolto. Per certi reati, se ti trovano col cellulare ti vogliono ritirare la patente immediatamente, figurati. Via. Ma sai quanti ne vedo col cellulare guidando? L'altro giorno mamma stava attraversando, no? Che lì veloce non può andare. E qui arriva questo SUV bianco, questo macchinone, e si ferma all'ultimo. E io ho detto, mi dice ti fermi, mi dice freni in anticipo. E c'era una donna che stavamo parlando al cellulare, capito? Quindi quando sono distratti, certe volte manco il pedone vedono. O non riescono a frenare, o non riescono a cambiare marcia. Non... Io quando ricevo chiamate, o non rispondo, o sai cosa faccio? Se riesco, se non c'è traffico, prendo il cellulare, lo poggio lì sul sedile tra le gambe e premo il viva voce, sempre in condizioni di sicurezza, premo il viva voce e parlo così, con le mani sul volante e col viva voce. Se invece c'è traffico che devi stare molto attento alle manovre che fai, non rispondo, perché è pericoloso. Ma se c'è gente che chatta mentre guida, chatta, c'ha un occhio sul cellulare, ogni tanto guarda avanti, capito? Guida anche di notte chattando, ma si può essere più matti. E poi si lamentano degli incidenti, io ho il viva voce, quando devo rispondere schiaccio il tasto verde e parlo del viva voce, capito? quello che ho io poi si sente benissimo, è un vibravoce che è di lusso veramente. Eia. Se invece vedo sempre gente col cellulare, un giorno guarda mi voglio portare il fischietto appresso, quello di metallo con la pallina, quando sono in giro a piedi e vedo qualcuno col cellulare, piglio il fischio, così si assustano, credono che ci sia il vigile, magari rallentano e accostano. Troppi ce n'è. Comunque il colmo mi che esce per i finestrini, sai quante volte io torno a casa, non c'è parcheggio, se c'ho i finestrini tutti aperti, non salgo, cioè spengo la macchina, salgo, porto su la spesa, mi rinfresco un po', mi bagno la testa, oppure mi bevo un po' di acqua, insomma magari sa 10 minuti, un quarto d'ora aperta, magari facciano i vigili, no, te la vedono aperta, mettere aperti, no, senza sicura, e te la multano, non sanno come rubare i soldi al cittadino, dai, dice che lo fanno perché per prevenire i furti, ma secondo me è solo per rubare i soldi, perché alla mia macchina ci penso io, se la tengo a furti a me se la rubano, se me la rubano è il loro compito cercarla e boh. Ma loro sono mandrone, lo sai, ti pare che debbano cercare la tua macchina, non sarai matto. Purtroppo così è. Capito, la scusa è che per prevenire i furti, cosa ti danno furti a me? Io ci posso mettere anche il gancio che blocca il pedale, no, e il volante, e lasciare i vetri aperti, se ne frega loro. E scommetto che spuntigliano, dico, ma la legge dice che la macchina deve essere chiusa, anche se c'è il gancio te la multano. Ricordati il gesto che faccio io, mi. Ottusi, la legge dice, quindi anche se c'è il gancio e blocca sterzo e blocca freni, te la multano lo stesso perché è aperta. Certe volte magari la apro prima di partire per fare all'arieggiare, no? E ci sono tanti motivi. Voglio dire, come vi preoccupate che non mi rubino la macchina? Come siete solerti nel preoccuparvi che non mi rubino la macchina? Pensate ai cavoli vostri. Così ti mettono direttamente le manette invece di 166 euro di multa. Hai visto, non so dove, a Ostia o dove era, adesso ci sono, per non fare andare i venditori ambulanti, no? Perché qualcuno si lamenta che disturbano, no? Anche quando dormi in spiaggia. Ci sono i vigili con i Segway, no? Quella specie di mezzo a due ruote col manubrio, no? E girano, ogni mezz'ora girano in spiaggia per accertarsi che non ci siano i venditori ambulanti. Magari lo fanno anche da noi, te ne immagini? Così la volta che glielo dico ai vigili urbani, come si vede che non avete un cazzo da fare? Ti arrestano, è un reato, non puoi. A sorpresa è pubblico ufficiale. No, ma io, cioè, finché non li offendi proprio dicendo un'offesa personale, che cosa ti possono dire? Quando dici, come si vede che non avete né meglio da fare, o come ho detto prima, che cosa ti possono dire? Possono dire, lì pensi a quello che fa lei, non si preoccupi di quello che facciamo noi. E così ti dico la prima cosa, per non fare nulla. Se dopo tu resisti ti mettono le manette, capito? E con quale accusa? Oltraggio al pubblico ufficiale ti mettono. E se dopo aggiungono anche le percosse ne pigli pure di più. Capito? Perché dicono che li hai picchiati, invece non è vero. Ma devono avere anche i segni addosso. E poi l'avevano depenalizzato un po' questa storia del. Cioè non basta. Se tu, ammesso che tu li offenda, non basta più la parola del collega, lo sai, per oltraggio. Perché ci stavano giocando troppo i signori, capito? Deve essere fatta in presenza di più persone. Pubblicamente con in presenza di persone che sentono, ma se tu ti ritrovi da soli dici, ma capito? certo bisogna evitare, no, ma però diglielo, ma non avete di meglio da fare che dar fastidio a dei poveretti che cercano di sopravvivere lavorando? Oh, se è da solo gli puoi dire anche, senta, siccome a me mi sembra che lì è un gran testa di cazzo, non ha niente da fare che rompere i coglioni a me, cande su le sue, la parola tua vale quella sua. Una volta uno, oh, proprio il colmo è, cioè, bisogna stare 5 metri dall'incrocio, no? Magari la mia macchina era a 4 metri, ma non dava fastidio, non intralciava il traffico, non intralciava la visuale. Nonostante ciò, ha messo la multa. Capito? Ti posso sostenere l'incrocio, ma proprio bisognava essere, c'era un bel spazio libero. E gli avevo detto che quei soldi li andavano in chemioterapia, gli avevo detto. Lui è rimasto così. E poi ha risposto, dice, no, dice, a lei le vado in chemioterapia, lei a chi le vuole bene, capito? Però sull'istante, al momento che gliel'ho detto, ci è rimasto, ho fatto gli occhi sgranati, mi. Infatti, però non lo fare, no, la gente è alta 2 metri, di quanto è alta è anche grossa, tipo Antonio Cessa, il vigile di Sorso, che quello ti alza in alto e poi ti mette le manette e ti dice, adesso solo perché mi hai picchiato, brusino del vero, ti cudi di già fattiello. Quello è pauroso, oltre che spara bene, anche istruttore. Sì, ma lì era proprio il colmo, era proprio per puntiglio, mi. Magari mezzo metro c'era. Che ne so io, come quelli che metti solo una ruota sul marciapiede o una ruota sullo stato invalidi ti fanno storie. Bisogna avere una certa elasticità, dai, se no si vede proprio che stai rubando soldi. E quella volta gliel'ho dovuto dire, non potevo stare zitto. Io qua sto aspettando la pappa, insalatami, roba fredda, perché non se ne può più, guarda. Ti dico solo che qui in questa stanza, vabbè c'è la finestra aperta, ma il cielo è coperto, no? Ci sono in questa stanza 29 gradi, ti dico solo questo. E io ho caldo, sono in mutande, ho caldo, non posso stare. 29 gradi, mi. In camera mia che è tutto chiuso, per non far entrare il caldo, ci sono 28 gradi abbondanti. Io qua 27 mi ho avvicinato il ventilatore, infatti sento questo fresco, a chi ti meno si buzzacca. Adesso me ne faccio uno qua, c'è il trombone che c'avevo nel computer vecchio con la ventolina, me l'ha tenuto in faccia. Eia. Questo ti volevo dire, certe volte sono proprio arroganti i miei vigili urbani, più della polizia e dei carabinieri. Una volta hanno visto la macchina sul Passo Caraio, no? Però il padrone del Passo Caraio che ogni tanto magari deve uscire subito la mette lì, no? Lo so, non si dovrebbe, ma lo fanno. Sarebbe i vigili urbani, hanno visto questa macchina, magari chiamati da qualcuno geloso, non lo so. Ho detto dalla finestra, guarda che è il padrone del Passo Caraio, il signor Vacca, guarda che bussi al campanello che la leva. E questo vigile, oh, io non devo bussare proprio da nessuna parte, sono sbruffoni, mi capito? Ogni tanto qualche schiaffo da qualcuno che ne ha le tasche piene poi ce lo prendono, mi. Qualcuno non ne può più e sbotta, capito? Soprattutto in estate quando c'è caldo e quindi dà la testa. Adesso va, sabato vado al campo a vedere se ne posso prendere per il culo un po'. Se c'è Antonio Cressa di Gabbè Urbano. Sì. Poi da quando li hanno nominati cose di polizia a tutti gli effetti si allargano un po' troppo alle volte. Che ci vuoi fare? Aspetta che c'è mamma che mi chiama. Eccomi. Natalie. Oh, dimmi. Ho letto un fatto di cronaca. Non so di quando, ma l'ho letto qualche giorno fa, no? C'erano due vigilesse, oppure un vigile e una vigilessa, no? che hanno dovuto avere a che fare con una persona violenta, non so se fosse italiano o extracomunitario, no? E che ha cominciato a tirargli roba, non so, oppure o picchiargli o tirargli roba a faccia. Aspetta, ma... Sì, gliel'ho detto a Natalia. Insomma, si sono dovute difendere queste vigilesse con lo spray al peperoncino, no? Beh, nel momento del bisogno non ha funzionato. E sai perché? Perché prima usavano uno spray che costava molto di più, tipo 30 euro, no? Ma era affidabile, no? Cosa ha fatto il comando di polizia municipale? Per ridurre i costi, gli ha cambiato la bomboletta di spray, ne ha preso uno che costava tipo 13 euro, no? Proprio... da 13 proprio di nome di fatto, infatti non ha funzionato, capito? E quindi le vigilesse hanno buscato, a una gli ha dato un colpo in testa o gli ha tirato un oggetto in testa e l'ha fatto male, perché c'erano le foto della vigilessa dentro un'ambulanza che si teneva la testa, che si toccava la fronte, capito? E quindi hanno protestato anche i vigili urbani e dice noi dobbiamo rischiare di avere a che fare con persone violente e ci danno roba scadente, capito? Ma cosa roba scadente? Cazzo, qua ci vogliono 15 persone per ammanettare uno di quegli energumini. Allora sai in America quanto ce ne vogliono? Eh beh, due almeno. Due, ma sono grossi, sono, vabbè, ma quella è polizia americana, sono tutti grossi, muscolosi, e qua certe vigilesse sono esili, non possono fronteggiare una persona violenta, soprattutto se è grossa, se è forte, capito? Insomma, fatto sta che lo spray al peperoncino gliel'hanno dato economico, non ha funzionato. Dicevo, non spruzzava dritto, spruzzava i lati in tutte le direzioni tranne che dritto, e infatti poveretti hanno buscato. E io che me lo volevo comprare lo spray al peperoncino? Guarda, lo vende Chen, di solito lo vende Chen, prendi il TV1000, TV1000, lo devi prendere da 20 millilitri, quello sottile, perché solo quello da 20 millilitri lo puoi portare appresso. Invece quelle bombolette da 40 millilitri o 50, non, in teoria non ci potrebbero portare, perché secondo la testa loro ha una capacità offensiva maggiore perché c'è più prodotto. Però nessuno ti vieta di portarne due o tre o quante ne vuoi da 20 millilitri. Infatti, sempre da 22 ne arrivavi di uno. Cioè guarda, cioè non ne puoi portare una grande, ma ne puoi portare due o tre piccole. L'importante è che ogni bomboletta sia da 20 millilitri. Si chiama il Lady, TV1000 Lady, cioè per signora, no? E beh, non hai approfittato subito, ma... No, stavo parlando con mamma. Capito? Non so se ce l'abbia attualmente, ma anche io lo volevo prendere. C'è di due tipi, con lo spruzzo a nebbia, no? Oppure lo spruzzo diretto, proprio un getto diretto, sottile. Con la nebbia, loro dicono fino a 3 metri, ma ne fa massimo 1,5 metri di distanza effettivo. Invece quello a spruzzo diretto lo chiamano getto balistico, dovrebbe arrivare fino a, secondo la testa loro fa 4 metri, ma vai, se tu lo puoi usare 1,5 metri, quello diretto massimo 2-2,5 di metri, se vuoi essere sicuro. Se non mi, se vuoi fare una bella cosa, costa un po', il jet protector, quello ti spara una 10 millilitri, una fucilata di 10 millilitri di gas al peperoncino in faccia, ma è una fucilata proprio mi, esce a una velocità mi pare di non so quanti chilometri orari al secondo. Roba di donne quelle sono. Aspetta un attimo Marco, devo mettere la pettolina al campo. Sì, ciao Claudio, ma sai com'è, quando non ti vuoi sporcare le mani, c'è quello direttamente. No, quando non vuoi pigliare ciaffi. Beh, io sono gracilino, io non è che ho tutta questa potenza fisica per difendermi. E quello è buono. Poi te l'ho detto, c'è il jet protector, no, che sembra una Glock, una pistola Glock. C'ha due cartucce da 10 millilitri di liquido al peperoncino, no? Ma quando spari una fucilata, mi pare che parte a 120 metri al secondo mi lo sparo, lo spruzzo. Cioè c'è dentro queste bombolette, c'è, che sono allungate, c'è una cartuccia che dà la pressione al liquido praticamente, capito? E che quello costa molto, costa intorno ai 200 euro, ma quello è molto più sicuro di quelle bombolette lì. Ciao, buonasera, io mi sono entrato adesso, sono mio figlio, dopo devo andare, che lo so, mi anche le 7. E chi caldo con luci, per carità. Vabbè, tutto a posto? Tutto a posto, niente d'ordine. Ci sono 29 gradi qua, pensa, ci sono in 80. È caldo, c'è caldo. Guarda, sto cominciando a buriarmi quest'estate, perché tanto al mare non stiamo andando, perché ci facciamo sgomentare dal caldo, insomma. Poco e niente stiamo andando al mare. Gira gira è meglio davvero l'autunno, più fresco, più vivibile. Io sto odiando, come quest'anno mai, sto odiando il caldo, capito? Comunque cioè, termina presto sto caldo, perché il fine agosto non sarà come adesso, non sarà come adesso, cioè, ci saranno piogge, vabbè speriamo che arrivi in fretta queste piogge. Che arrivi freddo al freddo, che si tolga la mezza ai piedi, questo cacchio di caldo ma già si è fatto. Va bene, c'è anche Natalino, avanti Natalino. Via, è impegnato e sta facendo roba al cane. Il caldo c'è, minchia. Non ci viene voglia nemmeno di andare. Ah, mica a Platamona, alla rotonda, la mia ragazza. Aspetta, stavo sentendo mamma. Ma scusa Claudio un attimo. No, dicevo, alla mia ragazza lì alla rotonda, come dite voi, sono arrivati i vigili urbani o chi per loro e gli hanno tolto tutto quel gabbiotto di quella specie di copertura fatta di teli verdi, tutto le hanno tolto. Che non vogliono che sia lì, non vogliono che sia lì, però allo stesso tempo non le vogliono fare il TSO per farla andare via. Mi hanno smontato tutto, ho detto adesso lei per dormire come fa? Dice devo dormire all'aperto, alla merce di tutti. Ah, è uno schifo, ma te stessa, non ti pare niente che arriva lì a Platamona, deve avere questo schifo. Io sono andato quando l'altro giorno, ho fatto mia moglie giù lì alla Lido Sardegna e fa schifo, vedete, una cosa che fa schifo, capite? Non ha fatto bene a tutti, la devono mandare anche via lì, perché non può stare con una pensionina pubblica, ok, dell'ATP, e deve essere usata per l'ATP, non per starci lì sotto. E se ne va, si mette una pietra, capite? C'è la torre di Platamona e si butta. Beh certo, poi sai cos'è? È che lei è testarda, non vuole andare nei ricoveri per gente che appunto non ha niente, perché dice che è come il carcere, tutto orari, e lì purtroppo non ascolta, però lei rimane lì, il problema è che lei rimane lì, ed è tutto pieno di scatolette buttate nelle aiuole, la roba sua messa in terra lì, cioè o le fanno il TSO, con la scusa di, non lo so. Lei sta rimanendo lì, gabbiotto o non gabbiotto, lei dorme lì, dorme anche all'aperto. E dove va un raio? Già non muore, capito, di freddo, già c'è caldo, c'è fresco la notte. Poi si muore, uno è manco. Ma io mi chiedo come abbia fatto a passare l'inverno in quelle condizioni, col freddo di notte, col vento. Come abbia fatto a passare l'inverno, cioè se lo faccio io muoio congelato, mi viene la broncopolmonite fulminante, invece questa è riuscita a stare. Pensa che c'era lì, dall'estate scorsa era lì, si è fatta autunno, inverno, primavera e è ritornata l'estate. E però insomma che risolvano allora, perché sennò lì può chiedere soldi. Io non gli ho detto più tanto, ogni volta che chiede Volevo offrire un caffè. Non ho più, non ho monete, non ne porto più perché l'altra volta l'ho perso tutta in spiaggia, mi sono caduta dalla tasca, non mi so più tanto. Ah, vale, a me che cazzo io usavo monete. Ma lì c'è qualche schettino, un bungalow più piccolino, dove una volta prendeva girati la moglie di io, cosa faceva la crepe, non lo so. Quella tutta roba del comune, quello, l'altro, là dove c'è il mezzo. Fatta aprire il cancelletto lì dove è messo, metteva la mondezza lì dietro. Si può andare dentro la campeggio, non la vede nessuno e rimane lì dentro. Capito? Invece di stare sotto le pezzine dei tram. Eia. Una volta invece in estate, no, lei aveva la tenda lì, a ridosso proprio della rotonda, e non so chi, sicuramente gli sgherri del comune, erano andati quando lei non c'era, non so, e le avevano strappato tutta la tenda, le sdraio fatte a pezzi, lo sai, e gente brutta anche, gente del comune sarà, no, che va lì, purtroppo questa poveretta deve cercare di sopravvivere anche lei, solo che è testarda e da lì non se ne vuole andare, o le fanno il TSO con qualche scusa, solo che lei è sana di mente, cioè non glielo puoi fare il TSO, a meno che non si ammali gravemente, allora sì, e esco. Naturalmente a noi parliamo da gente che se ne frega dei poveri, capito? Tu soprattutto, poveraccio, cosa ci devi fare? Ci devi buttare a mare con la pietra al collo? Cosa devo fare? Devo buttarsi in acqua, a mare con una pietra al collo, capito? Così, a finito di rompere le scarpe. Se no te lo sto dicendo, che aspetta che hanno attivato 3-4, che passiamo. Finalmente sento il radiomattore di Sassa, l'ho visto che erano tutti morti. E cosa stavo dicendo? Lì, non sto scherzando, lì dove c'è la struttura di Ernesto, a fianco, c'è un cancelletto, proprio di fronte all'ex Lido, adesso chiamato Lido Servente, c'è un cancelletto, dove lì all'interno c'erano tutti i bidoni della Piazza Urbana, ok, siccome ho visto tutto pulito e ordinato. Lì dentro quel cancelletto, siccome con la struttura del comune, dentro quel cancelletto c'è anche una tettoia, praticamente una tettoia dove appunto venivano custoditi alcune cose. Ecco, lì sotto quella tettoia, all'interno di questo cancelletto, in modo che non si veda niente dalla strada, che lei possa rimanere tranquilla e serena, ok, stare in giro durante il giorno, la notte andarsi lì a dormire, ok, e anche riparata tra l'altro, lì il comune le mette una tenda fatta bene, una tenda da campeggio, una tenda fatta bene, ok, e ce la butta lì dentro, basta, visto che lei vuole rimanere lì all'aperto, ce la butta lì dentro, se no ti ho detto, se non vuole andare neanche lì, se fossi stato io a comandare, le avrei legato una pietra al collo, ce l'avrei buttata al mare. Come sei magnanimo? Alla Pantozzi, allora, ma cosa ne fai di tagliente? Dimmi cosa ne fai. Cosa ne fai? Ti stanno cercando di aiutare, ti hanno proposto di andare lì, di andare là, non vuoi andare a nessuna struttura. E allora continua a fare la zingara, però senza interferire nel traffico urbano, nelle cose urbane, nelle cose comunali, senza interferire a rompere scatole da nessuno, capito? Statene serena, tranquilla, ci sono quei cassonetti grandi della mondezza, se due di quei cassonetti grandi della mondezza tu li accoppi, ok, li giri a testa a terra, li accoppi, le fai il foro come fai per la casetta dei cani, può stare anche lì dentro intanto lì. La cuccia del cane la vuoi fare, sai che Ivan gliel'aveva fatta, anzi Giuseppe gliel'aveva fatta al cane che avevano in campagna, il mare maro, lo sai, era un cassonetto sollevato la terra, no, per un pigliare umidità, fatto il foro, il cane aveva la cuccia lì, bella grande pure. E tu pensi che quella non va bene, tu hai due accoppiate, le accoppi, le metti i bulloni in modo che non si muovano, no? E le togli il laterale, un laterale, poi le fai il foro bene per entrare, una parte, no? E tu la notte ti metti il materassino per terra, metti due pedane, materassino per terra, dormi tranquillo e sereno, isolato, non ti entra acqua, non ti entra dormire mezzo e tuppi, dopo anche mezzo e tuppi, una randaggia. Sto pranzandomi, insalata con cimental. Insomma è un piatto con cimental, insalata fresca, patate, carote, forse anche uova. Fresca, non abbiamo voglia di roba calda. Natalino, ci sei? Eia, già ci sono. Mia moglie ha portato in giro il cane e gli ho dovuto mettere la pettolina a chi da non ve la sapponì e non ne ha la cava. Infatti mi ne hai fasciato uno o due. Eia, dai, riprendi con Claudio che sto mangiando io. Ciao Claudio, a te l'immagine questo qui, a te l'immagine che sta mangiando lui e non si può disturbare, compreso. E per quello mi ha fatto riprendere. Allora, lascialo mangiare, no, io stasera 8:30 adesso. Mi sentiamo il cane, 7:30, 8:30, 1:15, ci andiamo lì a vedere. La mia figlia a cena, ci sono degli amici produttori che salgono. Tanto domani sono ancora a riposo e quindi stasera facciamo un venerdì così, dai, se no poi non ce la faccio più a staccare. Va bene, va bene. Magna, magna. Poi non lo so. Oh iaia. Ne sto venendo al veterinario, abbiamo fatto sterilizzare la gatta dell'amica di mia moglie e sono andato a ritirarla. E quindi l'ha fatta? L'avete fatta? Sì, sterilizzata, perché era sempre ben di migliori, c'è iatta. Aida si ribianava sempre a casa di Iaturini. E allora l'ha fatta sterilizzare, stamattina gliel'abbiamo portata e stasera l'abbiamo ritirata. Gatta, gatta, se senti rumore qua ci sono asciugacapelli in funzione. Va bene, va bene, e quello vuole fatto, perché noi qua ne abbiamo un paio, proprio che stanno qua dentro il giardino nostro, non si muovono, capito, vanno a mangiare, ci hanno di tutto di più, anche le cuccette, con i trasportini, vanno di tutto. Però sono due femmine, sono tutte e due sterilizzate, capite? Perché il primo anno avevamo tutto il giardino pieno di gatti. Allora, chi le gestisce queste cose ha deciso di sterilizzarle, capite? Infatti, si sono sterilizzate, migliori non ne guardano più. Cazzo, ma chi c'ha? Allora per l'altra che va, che deve partorire, no? Quindi non ributtiamo niente finché non partorisce. Ed è selvatica quella lì, infatti non sappiamo come prenderla. Adesso gli ho detto la lasci partorire, come partorisce, che sta svezzando i gatti, i gattini. Ho detto la pigliamo e gli facciamo lo stesso lavoro di questa qui. Così hanno finito di rompirsi di cazzo lui. Ma vogliono seguite però, capito? Già farlo, perché sennò diventa un casino poi. Infatti, se ne salgono sul tetto, per quello che è difficoltoso pigliarli. Quella di stamattina già la pigliata, si sente la data, ne vuoi trasporti, aspetta un attimo, dove sei mia moglie, mi sta chiamando. Se mi sono rifugiato in bar, mi sa cazzo, sto controllando. Su santo che l'ha fatto, me. 30 gradi. In questa camera, con la finestra aperta, non da me certo, ha toccato 30 gradi in questa camera, minchia. No, ma infatti non fa 30 gradi, non fa, io me ne appoggio, seduto, stavo così bene, se non tocca mi sta venendo la disgrazia, siamo 26, 27 gradi in tanta, c'ho la finestra aperta, no, non fa, c'ho una radio solo anche due, ne ho accesi. C'è solo due radio accese, adesso è tutto spento, e si accende tutto guai, si accendono tutte le HF guai, capito? Uia, uia, ho detto, deve finire questo caso, deve finire perché non si può andare avanti, assolutamente, cioè non fa, mi ha chiamato il mio collega oggi, ho detto, ma l'Isola Rossa ha toccato 36 gradi. A un certo punto, a mezzogiorno, hanno mollato tutto e sono andati via perché non si poteva più stare. Come fai? Caspita, a 36 gradi, a Londra ovviamente, è un bel sonno. Non fa, perché io su questa settimana io non ho combinato un cacchio, niente. Sono andato un giorno, una mattina al mare, e poi con mia moglie, ma giusto per accontentare. Sono sempre impegnato a fare altre cose, cioè le scene di Davos, eccetera, ma non ho fatto niente, perché sono tutto da lui, dall'aria condizionata, avevo un sacco di cose da fare, mettermi a posto un sacco di cose. Non ho fatto niente, Marco, credimi, non ho fatto niente. Perché sono tutto da lui, dall'aria condizionata, mal di schiena, facevano il collo, adesso un po' sta passando. Non lo sai tutta la settimana in macchina, non è tornato, con quella temperatura lì, aria condizionata accesa, sali e scendi, sali e scendi. Non sai come ti fa, ti crepa. Ti crepa sì. Mamma mia. Sì, infatti... Noi se andremo al mare ci andremo poi quando si abbassa la temperatura. Perché sai, tra il viaggio, vabbè, viaggio è poco, ma sai, portare la roba in spiaggia. Siamo in due, no? Portare tra zaini, sedie, solite cose, ombrellone, e una secatura, dai. Buona questa insalata, veramente buona. Però mancavano le uova sode, mamma le ha preparate ma non le ha messe. Buona. Se no dice, se no facciamo le lenticchie con questo caldo, no. Le lenticchie al cotechino. No, insalata, assolutamente, non le voglio roba calda. Col cotechino, cosa giri, vero? Attenali. Anche io già parlo, ho fatto una bella insalatona, una bella insalatona, con i cicchioli, i pomodori, di tutto, capito? Un po' di ricotta fresca, capito? Bella fresca, e una fetta di alluvia bella, bella fresca, basta. No, perché stasera siamo a cena di mia figlia, quindi capito? C'è altra gente, perciò sarà una ricotta abbuffata, non ti dico. E allora meglio stare tranquilli. No, è così, no, lascia perdere, no, non fa, questo caldo è troppo, è il 3 di giugno questo vento caldo, ma cosa, basta, adesso ci vorrà un po' la passata di maestrale, 2-3 giorni, beh, ma che non sia molto forte, tranquillo, aria fresca, maestrale, che è chiaro, ma è sempre scirocco, ribeccio, e no, maraghe. Poi di solito, da noi in estate arrivava l'anticiclone dell'Azzorre, no? Quindi dava un caldo moderato, tipico estivo, ma si stava bene. Invece quest'anno sta arrivando sempre l'anticiclone africano che porta aria molto calda, capito? A parte l'invasione degli africani che abbiamo, sta arrivando anche l'aria anticiclone africano e quello è molto ma molto caldo, ecco perché si sta male. Sta prevalendo quello africano, ma speriamo che non sia tutta l'estate così, se no... No, non penso. Non penso. Di passaggio questa perturbazione, spero che di più giorni faccia tempo bello. E se io passiamo qua, se no... Non ho riattivato il ponte e quindi sono sempre in ascolto lì adesso, ma non sento qualcosa, quindi non sentivo più niente. Va bene. Penso che agosto non sia molto caldo, perché è impossibile, perché se non arriva acqua, quei temporali, insomma, estivi che sono anche molto pericolosi. Deve piovere, Marco, perché siamo sotto, abbiamo già l'autorizzazione dall'ARPAS, l'autorizzazione a scarico per il trattamento del reflue, perché le campagne stanno morendo, quindi faremo sicuramente una mano al consorzio di bonifica per irrigare col trattamento delle acque reflue, perché acqua potabile non ce n'è più. Infatti sulla nuova c'era scritto che avrebbero razionato, tipo che dalle 8 di sera non c'era più acqua, beh qua c'è, magari poca ma c'è. tragica la situazione. Oh, hai visto al nord, nubi fragi, piogge, allagamenti, al nord? No. E qua non piove mai, è una cosa strana, sarà la posizione che abbiamo noi. A nord è troppa acqua e qua niente. Il giornale ha detto oggi che a Cagliari c'erano 40 gradi, picchi di 40 gradi, ma non si poteva fare. Quindi cioè, è allucinante, capito? Va bene, il periodo estivo, sì, una magliettina, ma che faccio uscire in giro e mutande a petto nudo e c'è ancora caldo. Io sto tutto il giorno così a casa. Dove andare? Sono uscito stamattina, ho salito due, tre volte oggi, poi sono risceso, sale e scendi. Domani mattina può portare immediatamente la macchina a Roberto perché me la deve finire a 600, perché poi rientro al lavoro non la posso lasciare. Quindi la mattina sono impegnato lì, lascio la macchina, mi prendo la moto, vado a fare commissione in moto. Tutta la settimana sono così, tutta la settimana vai via. Vabbè, pazienza. Finirà questo trattato, già vuoi ti dica. Comunque qua c'è una cappa allucinante, sembra che sia nuvoloso, invece c'è una cappa che domani ci sarà ancora più caldo, ancora più caldo. Figurati. Meno male che i lavori sono finiti qua sotto, questo di sotto stava facendo lavori alla colonna, no, quindi non bisognava buttare acqua, potevamo usare solo la cucina e il gabinetto secondario, ma domani se fa ancora più caldo io mi metto un po' di acqua nella vasca e mi immergo, capito? E me ne sto lì al fresco dell'acqua. L'avevo già fatto perché non ne potevo più, c'era un giorno che proprio ero insofferente mi al caldo, stavo quasi male e mi sono strampato dentro l'acqua e sono rimasto lì per un bel po', finché il corpo non si è proprio raffreddato dall'acqua fresca. Bene, Natalino sei rientrato? È un anno che sono rientrato. Riprendi, raccontaci qualcosa. Tu al mare non sei andato nemmeno una volta ancora, no? No, il bagno non me l'ha fatto, sono andato parecchie volte ma il bagno non me l'ha fatto ancora. Eia, anche perché io quando vado al mare, te l'ho detto, non sto lì a abbronzarmi. C'è gente che sta 3 ore al sole, senza bagnarsi. Io invece vado per bagnarmi. Io quasi tutto il tempo che stiamo al mare io sto in acqua, perché c'è fresco, sta bene. A me della bronzatura poco me ne frega. È secondaria quella, a me interessa l'acqua, la frescura, i capelli. E pensare che anni fa andavo al Ghero, al Lazzaretto. Ormai non ho più voglia di andare distante così, vado solo Pro Torres, che poi lo scoglio lungo è diventato un problema a me, Claudio, perché prima era tutto parcheggi lì, nella strada che costeggia lo scoglio lungo, adesso hanno fatto questo schifo di pista ciclabile e quindi tutti quelli che parcheggiavano lì adesso non parcheggiano più. Ci sono pochissimi parcheggi, pochissimi proprio, e non si può andare allo scoglio lungo, dai, non c'è posto. Insomma, come hanno rovinato Via d'Italia, Sassari, hanno rovinato anche lo scoglio lungo, tutto per far passare un pirla con la bicicletta, perché ne vedi ben pochi in bici passare. Boh, vabbè, contenti loro. Contenti tutti. Lasciai fare la bicicletta, intanto almeno c'è un posto per camminare, non posso scattare a lui. Vabbè. Poi raga, io scendo a portare il cane, che qua stamattina ho portato questo. Se ci siete ci sentiamo dopo, ok? Ciao qua. Ciao Fortuna, ben ascoltato. Entrando da Castello. Sì, c'è Marco e Natalino anche. Ciao Fortuna, buon fine settimana anche a te famiglia, ci sentiamo. Vai Marco, mi scendo un attimo a portare il cane e poi risalgo, vai. Sì. Fortunato, volevo dire, sento la tua radio lontana, buonasera. Radio 1 semi, Radio 1, la radio la sento appena adesso. Sì, confermo, batteria che sto scaricando. Ah, Ho capito, sì. No, non ho sentito scaricando, ma non capivo cosa, sì. Deia, ben sentito, dai. Nathalie, cosa stavo dicendo del mare? Non me ne ricordo più, ho preso il filo. Certo, non te ne importa niente di abbronzarti. Anche a me mi interessa farmi il bagno al blu. Sì, si sta bene in acqua, sì, ogni tanto puoi pigliarti un po' di sole, ma appena ti si asciuga l'acqua conviene rientrare. Se no, sì, io ho visto gente che sta lì, arriva, si mette col materasso all'asciugamano e sta al sole 2-3 ore senza mai bagnarsi. Ho detto, boh, ma questi non li viene un colpo di calore. Infatti, visto che dice se ne tutta la vita, che ne dormono tutti bruciati, chiaro grido, non si sta così al sole, no? Poi io ci sto 2 ore, un paio d'ore, cioè tra arrivare, sai, mettere, piazzare l'ombrellone, spogliarsi, insomma un paio d'ore, non di più, c'è gente che sta dalle 9 di mattina alle 7 di sera. Io mi chiedo come non come facciano a resistere. Quando andavo con una delle mie ex ragazze, no, mi pare, con la famiglia e tutto, stavano dalle 9 di mattina alle 7 di sera, ma poi in quelle zone, tipo Portoferro, c'era un caldo terrificante, anche se stavi all'ombra, sentivi il pietrisco che c'era lì, non c'era sabbia, c'erano, sai, pietre, erano roventi, sentivi il caldo, anche se eri all'ombra, sentivi il caldo intorno a te, sembrava di essere in un forno, tornavo a casa distrutto. Proprio per il calore, non si può, dai, non è per me, non ho, a parte che a me la radiazione solare mi abbatte molto, torno proprio esausto a casa, anche per stare 2 ore. Ok, Fortunato, riprendi? No, forse ha chiuso. Quindi niente più Alghero, a parte il lazzaretto aveva l'acqua ghiacciata, Nathalie, anche se ti mettevi la muta con la roba da soup, l'acqua era ghiacciata. Poi io lo soffrivo molto il caldo, il freddo in acqua. Purtroppo è così, alle bombarde non ne parliamo, ancora più fredda. Lo so, Alghero lì è fredda l'acqua. Però ha dei bei fondali, mi ricordo quando cercavo di pigliare qualcosa, i fondali erano belli, scogli, vedevo un po' di roba. Diciamo che a me piacciono i fondali di Alghero perché sono, per esempio, dove eravamo andati noi con amici, a Calaviola. Calaviola è spettacolare, a parte che l'acqua è trasparente, vedi il fondale anche a 20 metri, è meravigliosa l'acqua. Poi tutto a un fratti, capito? Vedi anche murene, polpi, insomma, lì è bello pescare. Una volta ci eravamo allontanati dalla riva in modo pauroso, lo sai. Eravamo arrivati oltre gli scogli che praticamente facevano, e stavamo andando quasi in mare aperto, e ti dirò che quella volta andata lì, sarà l'acqua fredda, mi era venuta un'extra sistole al cuore. C'è avuto il cuore che batteva, ho detto, ma ci siamo, me. Allora senza perdermi d'animo, piano piano mi sono arrivato a costeggiare, cioè sono tornato alla riva costeggiando un po' gli scogli, per non stare in acqua troppo profonda, capito? C'è stata un po' la fatica, perché annotare e allontanarsi così non va bene. Tanto l'altro era un idiota, non sapevo cosa fare, quindi anche se stavo male in acqua lui non sarebbe stato in grado di aiutarmi, sarei morto lì. Che poi le mie aritmie più che altro sono di origine nervosa e non sono di origine organica. Le extrasistole mi vengono così per origine nervosa. E viene la tipica, il battito accelerato, no? Due battiti vicino all'altro e poi la pausa compensatoria, tipico delle extrasistole. Infatti, io sono andato da coso, da Capocaccia fino alle grotte di Nettuno, qualcosa, dal gommone di quell'amico mio, 40 cavalli di motore, era bellissimo. Sono andato da mia moglie, c'è anche il filmato. Sarebbe bello avere un gommone. Così per andare allontanarsi e magari sbarcare su scogli lontani, isolette lontane. So che non ci abbiamo né la pecunia né proprio il posto materialmente dove metterlo. Si deve mettere anche il carrello aggiuntivo, no? Come si chiama quel aggeggio per trasportare il comune gonfio? Il carrello io ce l'avevo, ora che gli ha detto il resina, solo che ce l'avevo in società con mio fratello, mio fratello ha perso tutto, hai capito? Più in società con nessuno, o lui o nulla. Sì, non conviene comprare roba in società con persone, perché poi ci si aggiuffa per i turni, oppure uno lo sfascia, che ne so, e alla fine ci perdono anche tutti gli altri. Non conviene avere questa roba comune, capito? Ok, adesso vediamo cos'altro mi mangio, non lo so se c'è rimasto dolce. Ho fatto male l'altro giorno, sono andato da Lidl, non ho comprato nemmeno cioccolato. Per me è fondamentale il cioccolato è vita. Beato te che lo puoi fare, a mangiarsi questi dolci. Sì, finché devo stare attento per il diabete, non adesso ma fra 20 anni. Cosa ne so io se gli eccessi di adesso si ripercuoteranno nel futuro. Infatti, adesso mi accingo anche io a mangiare, che mia moglie sta già cucinando. So, minestre e fagioli, tacchizzoni, ci ho fatto il sugo per la pasta asciutta e ci ho messo il salsicciamento, quindi mi rimangio questo tacchizzoni. E poi ne ho anche dell'altro che lo cucina normalmente. Ne ho al sugo e normale. Ehi, pensa che voi dovete cenare, fra poco io ho pranzato. A parte che proprio non ci viene la fame presto. Guarda, le volte che prendiamo prima, tipo 2:30-3, e quando andiamo al McDonald's, andiamo verso le 2:30-3 quando la gente se n'è andata, e allora mangiamo prima, ma sono casi più rari, no? Non è che andiamo sempre. E mangiamo anche poco. C'è gente che ci piglia due panini grandi, patatine, ma proprio bestie famiglie. Noi pigliamo un cheeseburger, quel panino piccolo e patatine medie per due persone. Ho visto gente mangiare due panini grandi, ma proprio dei cani magnadori. Ehi, senti, va a farmi. Io una volta potevo pigliare il panino grande, ma adesso mi riempie troppo, sembra che il mio stomaco si sia rimpicciolito, lo sai, e quindi io basta che mangi poco e mi sento pieno. E forse è meglio così, perché sai cosa ho scoperto? Io pesavo proprio in mutande, no, senza niente, tipo 68-69 kg. Ed era per l'altezza, per l'età, un peso forma. Adesso mi sono pesato, sono quasi 74 kg, quindi sono aumentato di circa 4-5 kg, che se ne vanno tutti in pancia e stomaco, perché a me le braccia e le gambe non è che mi si rinforzano, no, diventano più, tutto in pancia se ne va, pancia e stomaco, capito? Infatti c'è un po' di pancetta adesso. È meglio tenersi a stecchetto invece, purtroppo i dolci anche fanno ingrassare, cosa vuoi? Ma io non riesco a farne a meno, altro che dieta è, morto. Giulio, ci sei all'ascolto? Sì, ci sono, ma sto seguendo la televisione. Ehi, ciao Giulio, dai, un saluto. Vabbè, Claudio è andato a portare il cane, così siamo trovati lì due persone. Adesso stanno andatino, devo dire una cosa a Natalino, ma si è sentato, dai. Sono qui, ok. Sì, no, stavo seguendo la televisione, prima era il computer, stasera era il computer, stasera sull'altro. Oggi ho sentito più caldo del sud. Sì. Ieri, io sto controllando le temperature interne, sia qua che in camera mia, e oggi era più alta, guarda, non... poi pensa che stavano facendo lavori sotto, fino a stamattina e non potevo, alla colonna montante, non potevo farmi nemmeno una doccia, ma già mi rifaccio da domani. Voglio, anzi mi faccio proprio il bagno, metto acqua fresca nella vasca e mi immergo, finché è bello il corpo, proprio non si raffredda, non scende di temperatura, allora è più fresco, poi uscendo. E già. Ovviamente, devo dire una cosa a Natalino, ho preso il filo, secondo me questo è Alzheimer, Alzheimer giovanile. Ma cosa Alzheimer giovanile? Stavo dicendo, adesso dal 5 è stampato un elefante, hanno fatto via, adesso su Bidugno lo fanno vedere, passeggiando per le strade di Sorso, questo elefante quindi ha contro il suo volume. No, aspetta Giulio, che sento l'effetto camera molto. Cosa è successo a Sorso? Sono forse, aspetta che guardo. Eia, stai meglio. Adesso dovrebbe andare bene, guardate. Sì, stavo dicendo, un elefante dal 5 è scappato ed era in giro per le strade di Sorso. Ah sì, l'ho letto sulla Nuova online, e hanno fatto vedere la foto dell'elefante che passeggiava per le vie. Ma l'avranno ripreso, niente sai? Sì, l'hanno ripreso, ho visto su un video, su YouTube l'ho visto. Non mi ha detto come cercare il giornale di Bidugno in questo momento. E hanno dato il sommario di tutte le notizie che devono trasmettere, per cui lo faranno vedere. Già l'hanno inquadrato solo nel sommario, poi adesso quando arriva il momento di quello spot lo faranno vedere. Eia, il video lì non lo seguo più, una volta lo seguivo di più quando c'erano pochi canali, adesso no, purtroppo i canali, molti sono di televendite, tutto televendite, addirittura mi sembra una cosa proprio ridicola anche farla vedere in televisione, vendono i vibratori, no, quella roba sessuale tramite televendite in televisione, ma è il colmo, è il colmo. E quando ormai è tutto sotto sopra, è il capovolto, ci sono poco di cretinate in televisione, per carità, ma quello anche l'altro giorno fanno con la pubblicità su questi canali, non so, con gli attrezzi, per i linfomani sono sugli attrezzi. Stavo dicendo, io un pignolino non è che lo seguo molto, adesso perché stavo girando i canali e l'ho visto, mi sono fermato un attimo. Eia. Cosa volevo dire a Natalino? Natalino, ma tu l'avevi visto il messaggio delle pinze sull'altro telefono o no? Sì, l'ho visto. Purtroppo però ti volevo dire che sono andato anche oggi da Lidole per cercare una cosa e le pinze mi pare di non averle viste più, cioè è passato troppo tempo. Comunque le ripropongono periodicamente, anzi ti dirò di più, che ci è arrivato il nuovo volantino di Lidl e dalla prossima settimana riproporranno, diciamo, quasi lo stesso tipo di pince, però più colorate, col manico anziché in acciaio inox e ricoperto di tipo una gomma nera e rossa, no? Sempre col il contenitore da cintura con un bordino rosso. Comunque le troverai se ti servono. A me piacevano più spartane, tutte in acciaio inox, senza bordo in gomma, ma è una scelta mia. E hanno un sacco di roba, trapano demolitore, hanno un sacco di attrezzi professionali o semiprofessionali, a prezzi popolari, diciamo, prezzi popolari, perché se vai a comprare Porsche magari li paghi un capitale. E infatti, io ce li ho Black & Decker, c'ho la moletta e il trapano, due trapani, c'ho uno a corrente e uno a batteria. Sì, c'è da dire che della Black & Decker magari, bene o male, anche ordinandoli trovi ricambi, invece di quella roba marcata Parkside di Lidl non credo che ricambi ne trovi. Anche se nessuno ne chiede ricambi anche di Black & Decker, cioè se ti si rompe un trapano lo ricompri e fai prima. Comunque prezzi buoni, prezzi buoni. Pensa che erano arrivati, no? Questo giovedì dovevano arrivare da Lidl degli orologi belli e sportivi. Sempre che siano arrivati, perché io ho il dubbio. e non c'era traccia né degli orologi né dello scaffale con scritto orologio sportivo 799, niente. Quindi o la gente ha preso d'assalto proprio lo scatolone all'apertura di Lidl, perché la commessa mi hanno detto che li hanno venduti tutti, oppure non li hanno portati e era uno specchietto per le allodole. Pensa, io sono andato a mezzogiorno, non c'era un orologio, ma non c'era nemmeno lo scaffale. Io ho guardato bene, doveva esserci almeno uno scaffale vuoto con scritto 799, niente, non ce n'era. Erano orologi dell'Auriol, però con un cinturino bello, ce n'era uno con il cinturino nero con la striscia rossa, molto molto bello, molto sportivo. E vabbè, pazienza, sarà per la prossima volta, già ne ho orologi. Poc'anzi mi ha mandato un sms e quando volevi a telefonare, se non mi mandi il numero come faccio a telefonare? Come ti vuoi che ho mandato su quella WhatsApp, ti ho mandato quel messaggio vocale, se è quello che ti serviva, abbiamo già completato. E Natalino ha cambiato di nuovo telefono e quindi numero, perché prima aveva Natalino 1 o Natalino Alfa 1, ci avevo su WhatsApp, poi ha cambiato, ha messo con l'altro telefono Natalino 2, adesso è di nuovo tornato a quello, mi spiegaglielo tu Natalino. Sono tornato a quello che uso sempre, perché l'altro era sempre spento, era, e praticamente non ricevevo i messaggi di WhatsApp, perché non ce l'avevo WhatsApp nel 347. Appunto io ti ho mandato un messaggio, non so se l'hai aperto, se è quello che ti interessava, perché tu mi hai mandato un messaggio vocale e io ti ho mandato lo stesso, uno vocale, se è quello che ti serviva va bene così. Ehi, già guarda, lo dai giù. Comunque il 347 è quello, il numero solito. No, se il numero solito con questo problema, non credo. Non può essere diversamente. No, perché non appare il numero. Se tu mi mandi un messaggio vocale, il numero non ne appare. Ecco, mi hai chiesto di telefonarmi. E cosa ti telefono se non ho un numero? Se non mi appare il numero che vuole dire che considerare giusto o sbagliato. Io ti ho mandato un messaggio vocale, sempre hai risposta di quello che mi hanno dato, ma dovrebbe andare bene ugualmente. E adesso vediamo, se non lo ricevo ti mando il numero e tutto, capito? Io sì, va bene, io sono qui, sei già chiedato. Anche oggi è fatto molto caldo, domani guarda, stiamo guardando il meteo, le migliorina, 33 gradi domani sarà, 19-33, minima 19, massima 33, come oggi uguale, niente. Ah, qua dentro ce ne sono 27, cioè il ventilatore acceso, già sta bene, là. Non c'è tutto questo caldo, fuori è il beccaglio. Ehi, anch'io già sto bene, se per questo non lo sono tutto, quindi basta muoverci un attimino che senti che sto sudando. Purtroppo il tempo è quello che è, nonostante che stasera è un pochino rumoroso, già si vede, ma c'è la cappa che copre e non copre, per così dire. Per cui il caso non lo ripara, dai, anche domani sarà uguale a uscire, inciso lì. E beh Marco, mangiato hai? Sì, una bella insalata prima, bella fresca, adesso mi sto mangiando una crostata di albicocche, molto molto buona, come dolce perché non c'è altro. È fatto bene. No, io voglio mangiare pranzo, voglio il pesce, questo periodo stiamo andando avanti a posto di pesce, meno carne e più pesce. Eia, a me purtroppo piace la pancetta, è grassa, fa più male, però mamma mia, bella salatina, no, giusto, è la cosa più buona che ci sia. Ma tu veramente che faccia più male la pancetta? Guarda, io posso dire una cosa, in Sardegna ci sono dei lungo centenari che dalla mattina presto si cominciano a mangiare salsicce, lardo o pancetta di tutto, e naturalmente non mancava il bicchiere di vino. appunto in maniera regolare, senza abbuffarsi, la pazienza faccia più male di altre cose, ma c'è un motivo che guarda. Dicono inoltre che il vino faccia bene, ce ne sono un bicchiere, mezzo bicchiere a pranzo o a cena, faccia bene alla circolazione, così dicono, ma... Dicono che stimoli la circolazione, tanto così dicono, per lo meno, poi non so se effettivamente così, ma io non bevo, per cui non manca niente, quindi sia a casa o di tutto, qualsiasi liquore, qualsiasi mirto, qualsiasi fumante, di tutto. Addirittura anche un vino, a volte un Don Perignon, sai cosa vuol dire Don Perignon? Quando c'è tu io una bottiglia a 2 litri, mi sembra 2 per me, o forse per me, quando c'è tu io, e chi è che ne beve? Nessuno. E io ne detto a te quando me lo fanno, non per venire per cui, ce l'abbiamo, sono 3 litri che si è formato. Ma il Don Perignon è uno champagne, sì, non è un vino. No, no, è proprio perché è un vino, proprio un vino. Quando c'è tu io lo porta una scuola di confezione, sai, tutta confezionata con la sua scatolina di legno, tutta ben finita, tutta ben fatta, pazienza. Scusate, non riesco a parlare che sto mangiando. Sì, vabbè, non è un problema. Non è un problema. Avanti Natali, canta, canta. Canta Natali, canta in stato. Se sei ben intonato, se sei intonato no. Natalino è caduto dalla sedia. E la moglie lo sta raccogliendo. No, è che sto mangiando giù, e mi viene male. Mangia, mangia, buon appetito anche a te. Sì, vabbè, perché tra un po' anch'io devo procedere per la cena. Per cui, tanto sono già a meno quarto, è 8 meno quarto, quindi subito si pranza di cena da meno solo in cui, dai, più o meno, ma solitamente 8, 6, 5, 6, 10, 8, 4 massimo. Ah, posso ritenermi soddisfatto. Ok, ehi, 8 meno un quarto, Claudio sarà per tornare. Io non tarderò a andare, mi accendo un telegiornale per vedere quali altre disgrazie sono successe oggi. Certo, è tutta una disgrazia presso all'altra. Omicidi, stupri, uno schifo sta diventando il mondo. È già diventato, non è che è già diventato. Gente è andato a vicino, è andato a stare. C'è gente che mandava le donne a prostituirsi, tutti gli italiani, niente ne hanno arrestato, così, dico, l'abbiamo ammazzato subito, poi quando erano in alto mare li avrei buttati in acqua, arrangiatevi adesso. Sì, sono sempre loro, sempre, l'ho letto, nigeriani e nigeriane, tutto, tratta di esseri umani, induzione alla prostituzione, sfruttamento prostituzione, traffico di droga, com'era, aspetta, estorsione, minacce private, sono sempre nigeriani, i senegalesi non sono così, forse i francesi li hanno educati bene in Senegal, ma i nigeriani vengono qua per delinquere, c'è poco da fare, il centro storico ormai è roba loro, Ma quello che non capisco io è questo fatto qua, c'è scritto sul giornale che erano indagati da un anno, li stavano seguendo perché avevano appunto appurato questo tipo di organizzazione, ma c'è bisogno di aspettare un anno, questo nel frattempo, sai quanto danno hanno fatto? Non lo so io, incredibile, ma prendere e arrestare subito, spera che li scopri, forse dicono che dobbiamo arrivare magari al grosso fornitore che tu hai chiesto, prendere, lo pesci forte, vedrai che quelli parlano e poi il fornitore ti danno nome e cognome, è il diritto, è anche il numero di scarpe. Purtroppo anche questi poi si pigliano avvocati e rischiano di sfangarla, invece quando le accuse sono molte, sono più pesanti, Anche c'era prostituzione minorile, mi hanno indotto minori sempre senegalesi a prostituirsi, quindi più roba c'è, più hanno la probabilità di metterli, di dargli più pena possibile, sempre che gliene diano. Perché hai visto anche quello Zulu l'altro giorno, ha dato una coltellata a un poliziotto, per fortuna aveva il giubbotto antiproiettile, no? Il giudice ha ritenuto che non c'era la volontà di uccidere, l'ha scarcerato subito, no? Non gli hanno proprio dato nessuna accusa, però almeno l'hanno espulso dall'Italia, l'hanno messo su un aereo e l'hanno rimpatriato, mi pare in Ghana o dov'era. Sì, ma io avrei anche espulso dall'Italia anche il giudice, ma quando mai uno può andare alla controllata da un poliziotto non c'è intenzione di uccidere, ma voi che fate? L'avrei espulso insieme con delinquenti, ma non è possibile queste cose. Ma cosa ha dovuto fare per essere colpevole, per esserci in intenzione di uccidere? Ucciderlo veramente? Non lo so, io mi metto se per questi sono atteggiamenti. Qui mi stanno facendo vedere le bacche, la televisione che sta passeggiando per le vie di sotto. Eia, sai perché il giudice ha preso questa decisione, anche se già c'era il porto di coltello, se lo porto io mi fanno un mazzo tanto, perché il poliziotto aveva il giubbotto antiproiettili di quelli a pista, no? Quindi lui ha dato il colpo sul giubbotto, quindi siccome lui, questo qua, l'accordellatore, ha visto che c'era il giubbotto antiproiettile, cioè ha fatto un gesto insensato, che non c'era la volontà di uccidere. Diverso se gli avesse tirato il coltello alla gola, che ne so. E comunque hanno fatto bene a... Tanto mi, se lo metti in galera, sono i contribuenti che devono pagargli tutto. Se alla fine i contribuenti pagano anche le carceri, meglio che l'abbiano espulso. Sì, ma io non sono dello stesso avviso, perché se uno va a dare una coltellata a una persona e quello ha un muro di blocchetti attorno a sé, no, questo non significa che non vai colpito per ucciderlo, perché uno come fa a sapere che cosa ha sotto gli abiti o un'altra persona? Ma vuoi scherzare? Certo, dicendo, io avrei espulso anche lui, come minimo l'avrei licenziato dal posto di lavoro, perché quello per me ha fatto un errore grandissimo. Ha lasciato libero dopo due giorni e poi magari ha fatto il pene. È espulso dal posto, non ci sono dubbi, ma non lo puoi lasciare libero, perché l'ha lasciato libero subito. Beh sì, quello comunque il giubbotto era a vista, credo che fosse di quei giubbotti a vista che si mettono sopra i vestiti, almeno. E comunque sì, è stata troppo leggera la decisione. Ma anche c'era il porto di coltello, anche il gesto era da punire. Però te l'ho detto Giulio, se lo mettono in carcere, i detenuti costano, capito? Costano, e poi il contribuente alla fine che paga, contribuisce a pagare anche le carceri, questi qua. Poi detto chiaro, questo l'hanno espulso, questo ci mette poco a imbarcarsi su un'altra nave, un altro barcone e ritornare in Italia, scommetti. Sì, ma appena è stata la sentenza, tu lo prendi, lo porti su un aereo e lo mandi via subito, non lo puoi lasciare due giorni e poi è furto a corso, agli arresti domiciliari, ma vuoi scherzare? Sicuro che se quello si preoccupa che agli arresti domiciliari, quando è che ugualmente tante delinquenze rimane, non è che le serve la lezione, no, o il fatto che l'abbiano condannato, eccetera. Tu lo mandi via subito, all'istante, fatta la sentenza e mandato via subito. È inutile che restano due giorni qua, perché quello poteva fare danno veramente. Anche perché dice che era in stato di agitazione, era proprio un po' fuori di testa, e magari uscendo poteva anche ammazzare qualcuno davvero, e infatti certe volte i giudici non li capisci cosa, che razza di decisioni prendono. Tanto il giudice mi pare non paga di tasca sua, no? Lui decide questo, poi se succede cosa paga lo Stato, non lui di tasca. E mi pare che volevano fare una legge per la responsabilità proprio dei giudici in base alle loro decisioni. So che uno dice, ma i giudici allora se non hanno libertà di movimento, allora nessuno punirebbe più nessuno, perché se poi sbaglia paga di suo, capito il giudice? Lo so, così dicono, ma cosa vuoi che ti dica? Non me ne risulta nemmeno uno che quando hanno sbagliato facendo il 777 hanno pagato loro, di persona, assolutamente, poi lasciamo perdere. Io dico che se fanno anche loro le decisioni per conto proprio, indipendentemente da quello che può essere la legge, insomma la decisione giudice va bene così. No, non va bene proprio per niente, non va bene assolutamente. O invece la legge deve essere tutto subito, immediatamente, okay. E se non lo puoi mandare via subito, lo metti in cella di sicurezza, e se restano un giorno, due giorni, tre giorni in cella, l'Italia non diventa più povera, mentre invece diventa più povera se tu lo mandi a casa, perché quello esce da solo, gratuitamente, e fa danno, ammazza quello che gli sta a mente. Per cui non è così, assolutamente. Sono leggi troppo così tenere, non legge le pieghe che non vanno bene, secondo me. Ma facciano pure quello. Immagina ce l'avessi fatto io, no? Portare già un coltello in luogo pubblico e poi dare una coltellata a un poliziotto, nonostante anche il giubbotto, ma avrebbero condannato malamente, buttato la chiave. Però questi, non lo so, vabbè, ha trovato il giudice moscio, vivi, quelli all'acqua di rosa ha trovato. No. Diciamo che vuole cambiare tutto il sistema giudiziario italiano. Le leggi devono essere chiare e non interpretabili. Il giudice non deve interpretare proprio un cazzo. Quando spurta 10 anni, ed esame di verità, senza di domenichi e di verità, a questi extracomunitari in galera a casa loro, però subito espulsi e in galera a casa loro. E se trovato torna qua, messi su un aereo e buttato in mare, non si vada nei desaparecidos. In mare, alla seconda volta, ti scarico, ma 2000 metri. Come facevano in Argentina, che li sedavano i dissidenti argentini, no, quelli contro il governo dell'epoca. In mare aperto, lontano proprio dalle coste, li gettavano in mare. Sì, bella roba però. Comunque sì, no, ma quello non è nemmeno un'interpretazione della legge. Lui semplicemente la legge non l'ha applicata. A parte che quello era anche in stato confusionale, era agitato, magari mezzo matto. Potevo uscire e ammazzare gente, lo stesso. È stato molto molto leggero, è stata una decisione troppo leggera, Questo giudice ha preso una decisione veramente troppo leggera. Quasi immaginate solo questo, cioè quello che era già messo un giorno, già messo un domiciliare, secondo si saltava al mese, poteva anche andare e abbassare addirittura il giudice per dire, secondo la sua mente malata, perché si può giudice come un qualsiasi altra persona, ma poteva essere, io voglio sapere se dovessero fare una cosa del genere, con quale coraggio poi lo si pensa il giudice quando succede una cosa del genere, come lo so io. No, fanno le leggi secondo loro, non stanno lì a quello che effettivamente è la legge. Lo so. Signori, dai, vedo che sono le 19:56 più o meno, e io mi guardo il telegiornale, dai, ci sentiamo domani, sempre se sono vivo, tocchiamo ferro, no, perché potrei schiattare anche per il caldo. Ciao Natalino, ciao Claudio, se sei rientrato, ciao Giulio, a domani, dai. Ripeto, se sono in casa, ho presto o tardi, dovrei entrare in radio, ok? Buona serata a tutti, riprendi Giulio. Ok, ciao Marco, sentiamo domani eventualmente, se coincide. Va bene, buona serata e buona notte. Mangia, così grazie. Ciao Marco, ciao, ti aspettando, avanti la salita, anche io chiudo comunque, avanti la salita. ok, dai, anche io chiudo. Ah, ciao Giulio, ciao Marco, curati per me. E ciao Claudio, se c'è, all'ascolto. Adesso finisco di cenare e poi mi guarderò un po' di TV. Ciao a tutti, là. Ok, ciao.